Il neurologo francese Jean-Martin Charcot morì nel 1893. Figura eminente della psichiatria trionfante nell'epoca in cui poteva trionfare, celebre per aver diretto l'ospedale della Salpêtrière di Parigi, legò il proprio nome alla scoperta di alcune malattie, ma non riscosse, diciamo, analogo successo in casa propria. Sulle prime, il figlio Jean-Baptiste, accettando di seguire le orme paterne, lavorò con lui alla Salpêtrière, ma una volta che, ecco, a babbo morto venne in possesso del capitale, diciamo che manifestò un'idea tutta sua di come interpretare l'eredità paterna. Lascia perdere la psiche umana, si compra una nave, la chiama Pourquoi pas, e si butta nell'esplorazione del pianeta. Nel 1905 Jean-Baptiste Charcot pubblica il Journal de l'Expédition Antarctique Française, dove racconta del suo stupefatto incontro con quegli animali che nel 1598 dai viaggiatori olandesi, per il loro aspetto grassoccio, ricevettero il nome di pinguini. Un paio d'anni dopo, Anatole France, scrivendo la prefazione alla sua Isola dei Pinguini, pur mettendo in dubbio la legittimità del nome assegnato agli animali da lui incontrati, rende comunque omaggio a Charcot. L'Isola dei Pinguini nasce come libro nel 1909 invece. Il fatto che una sua versione italiana mancasse da parecchi decenni non so quanto possa essere posto in rapporto al fatto che il libro nel 1920 finì dritto nell'indice dei libri proibiti dalla Chiesa Cattolica. Buona parte dell'opera di France è stata fatta sparire dalle nostre biblioteche, e nel caso venga in auge quel recentissimo sistema americano che prevede l'eliminazione dalle pubbliche biblioteche dei libri poco richiesti, è presumibile che presto sparisca del tutto. Tuttavia, nel 2006 l'editore ISBN ce ne ha fornito una pregevole edizione ad un prezzo ragionevole e con un piccolo difetto. L'Isola dei Pinguini narra le conseguenze di un gesto. Saint-Mael, vecchissimo, stanco e un po' rimbecillito, naviga ancora in cerca di pagani da convertire alla vera religione, e naviga che ti naviga giunge in un'isola. Ci vede poco probabilmente, e fatto sta che impartisce il battesimo ad una comunità di pinguini. In paradiso ovviamente l'equivoco non passa inosservato, ma dopo ampio dibattito, come si suol dire, la sacrosanta assemblea decide di ratificare la sventatezza del buon Saint-Mael, anche se non manca chi profetizza sciagure. Infatti da quel momento la vita sociale felice e armoniosa dei pinguini si trasforma in un inferno terreno senza rimedi. L'innocenza si fa peccato, l'arbitrio si fa legge, il furto si fa proprietà, e la proprietà erige in 4 e 48 le istituzioni a propria difesa, la religione, la scienza, le ideologie, le arti e i custodi armati del nuovo ordine costituito. L'Isola dei Pinguini rappresenta allora tre metafore che nello snodo delle vicende esemplari in cui France trasforma il proprio amaro disincanto si sovrappongono l'una sull'altra. La prima metafora è quella dell'intero mondo così come risulta civilizzato, o meglio sottomesso dalle grandi religioni. La seconda è quella della Francia, presupponente baluardo degli interessi di grande potenza, disposta fin alle falsificazioni più turpi e umilianti, come nel caso Dreyfus, pur di mantenere il suo ruolo. E la terza è quella della borghesia, la classe di quegli esemplari goffi e grassi, goffi perché grassi, stolidamente egoisti, che ben possono essere rappresentati da quei suoi pinguini degenerati in virtù di un improvvido battesimo. Fatichiamo oggi a riconoscere nel pinguino la metafora del borghese. Come atteggiamento, come modo di fare, come aspettative di stili di vita, la borghesia si è talmente diffusa, ha mietuto mai tante vittime che forse nessuna metafora riesce più a descriverla, a contenerla. Fin la vecchia categoria marxiana di classe sembra andarle stretta. Ma ugualmente faticheremmo ad accettare quella sorta di restrizione ideologica che qualcuno ha voluto imporre alla nuova edizione dell'Isola dei Pinguini, scrivendo sul frontespizio «Storia fantastica e funesta delle miserie d'Occidente». E questo al difetto. Perché il meccanismo perverso descritto da Anatole France è più ampio e più comprensivo di quanto si possa onestamente farci stare nella categoria di Occidente. Perché non è questa o quella religione che viene tirata in ballo, ma la matrice generativa stessa di tutte le religioni. Non senza sorpresa, tuttavia, ecco, al di là dell'uso per designare varie forme di gelati o di merendine dallo statuto ontologico quanto mai incerto, ecco, una metafora attiva, tuttora attiva, concernente il pinguino l'ho trovata. Fra gli innumerevoli flagelli belli e pronti a colpire l'umanità dolente per farla un po' più dolente di quanto già non sia, ho trovato una particolare neuropatia che comporta difficoltà di deambulazione. Pare sia base genetica. Coloro che ne soffrono hanno problemi di sensibilità agli arti inferiori, camminano male, restano impacciati, se la cavano ma goffamente. Tant'è vero che non è raro che tra di loro, con un pizzico di umorismo, si definiscano per l'appunto pinguini. Soffrono della sindrome di Charcot-Marie-Tooth, sindrome che deve il suo nome ai tre medici che l'hanno individuata, il primo dei quali è proprio quel Charcot padre che, morendo, ha consentito al Charcot figlio di andarsene in Antartide a vedere i pinguini. Può dunque anche capitare che due vite si scindano, ma per quegli sghiribizzi del caso che governano parole e metafore, prima o poi si rinsaldino. Il Charcot diventa esploratore grazie all'eredità del padre. Realizza i propri desideri, ma mal gliene incoglie. Nel 1936, lungo la costa occidentale dell'Islanda, in una notte di tempesta, perché no, il Pourquoi-Pas affonda e nel naufragio Charcot perde la vita insieme a tutto il suo equipaggio. Tutto il suo equipaggio meno uno, un unico superstite, un marinaio che, ecco, se era lì a fare il marinaio è perché di eredità non ne aveva ricevute. A proposito di eredità e di genetica, forse anche di pinguini, allorché Berlusconi, in un plurale maiestatis, vede in un noi gli eredi di Craxi, alzi la mano chi non ha pensato alla cleptomania. Up high and the mamma.